Radio Città, ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, ben ritrovati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza insieme a Franco Paoletti che vi sta parlando e al di là del vetro il nostro indispensabile bolognese volante. Buon pomeriggio a lei, la vedo proprio impegnatissimo con cursori, video e quant'altro, vedo anche una faccia contrariata. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio, beh, era scoppiato il computer. Va bene, lei ha prontamente rimesso tutto e tutti i tasselli al loro posto. Esattamente, è una parola grossa, diciamo che abbiamo fatto del nostro meglio. Benissimo, e quindi the show must go on, come si suol dire. Absolutely, ecco. Definitely. E allora, playlist oggi vedo molte curiosità, molte novità e soprattutto anche dei graditi ritorni. Puntata numero 15 di domenica 16 aprile 2023, ovviamente. Questa è Easy Pop, il nostro pomeriggio musicale, anzi insomma la nostra oretta dove appunto si conversa di musica indipendente non solo. E allora direi di iniziare immediatamente. Lei che dice? Ah, non so mica io allora, faccio quello che mi dice lei, sono alle sue dipendenze, alle mie dipendenze, quindi io direi di ascoltare il primo personaggio che andiamo così a presentarvi. Daniele De Gregori, un cognome insomma impegnativo, ci presenterà Luglio e Milano e poi ve ne parlo di questo pezzo. Io per un altro ho toccato il fondo, da un altro sono stato raccolto, di un altro ho imparato ad avere bisogno ed ecco l'applauso, l'inchino, questo Luglio è Milano da vicino e questo palco necessario. Pensarti veramente un uomo e non mi posso salvare da solo. Io non mi posso salvare da solo. Unico per troppo tempo e sai di cosa parlo, se ti ho chiesto aiuto, se ti ho chiamato fratello, se tutto questo adesso è il mio traguardo, è il mio traguardo. Daniele De Gregori, Luglio e Milano. Esattamente così. Pop, puntata numero 15. Esattamente così. Quindi questo è il nuovo singolo per Daniele De Gregori, che non c'entra nulla con il buon Francesco De Gregori. Lui è un cantautore e chitarrista romano, pluripremiato nei maggiori festival italiani. Così, tant'è vero che abbiamo nei premi del 2022 il premio Bertoli e poi poi il premio ancora Pei, se non sbaglio, e Lunezia pure, quindi anche amato dalla critica, finalmente arriva con un nuovo album dal titolo La Cura, con etichetta Goodfellas. Questo è il suo singolo, è stato da questo nuovo album che era atteso soprattutto dalla critica. Che dire, che ci sembra molto interessante questo nuovo album, e devo dire che anche l'Italia sta tornando un po' a questi album un po' pensati, un po' concept, come si chiamavano una volta. Non male appunto anche la voce per quanto lo riguarda. Questo è praticamente il nuovo album suo, e lo ricordo che insomma il buon Daniele De Gregori è in attività da lontano 2005. Detto ciò, andiamo con la prossima selezione musicale che sta girando sui nostri piatti, ovvero sia Michele Serrani con La Mia Età. Inutile pretendere di non cambiare mai. E poi magari credere che sia normale, dai. Rimanere al chiuso quella sera, quando la porta aperta è fuori primavera, a scrivere una scusa che tu non ci sei ancora, che presto arriverai. Inutile rincorrere ciò che non torna mai. Od ostinarsi a attendere per non lasciarlo, sai. Ridere di chi ti ha fatto male, della vita con gli amici a cui non puoi mentire. Poi d'improvviso sera, è stata primavera, ma tu non c'eri mai. Ed erano giorni miei. Ma non è facile dimenticare il tuo segno su di me, che se bastasse solo una canzone, una da scrivere. E torni addosso come le parole, come il vento, come se non fosse mai passato ciò che altrove, ciò che ora. Che soli. Una storia interessante per questo cantautore che si chiama Michele Serrani. Lui da sempre è appassionato di canto e di musica, si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia di Urbino e poi in quei circoli entra a far parte del gruppo dei Zoè, che ha un certo rilievo a Macerata e comunque insomma in quella regione. Terminata l'esperienza con questa formazione, decide così di intraprendere la strada da solista e inizia insomma anche la creazione di un EP dove tra l'altro entra a collaborare anche Francesco Bigoni dei Gang e poi il tastierista dei Tiro Mancino. Da questa esperienza poi il solista nasce una vera e propria formazione acustica per lui dal titolo Echi Lontani, e poi via via insomma entra di fatto nel cantautorato italiano. Nel 2016 nuovo progetto solista e coadiuvato poi dal chitarrista Michele Quacci, già chitarrista di Vasco Rossi, di Danny Losito e tanti altri, e poi il produttore appunto che è Andrea May, già dei Gang, dei Nomadi, insomma lavorato con la banda Bassotti e poi tanti altri, fino ad arrivare a questo nuovo lavoro che devo dire insomma molto molto curioso e interessante da ascoltare con la dovuta attenzione, perché poi tante volte i dischi, almeno una volta, si ascoltavano nella propria cameretta con tranquillità, si degustava il testo. Oggi è tutto frenetico, insomma, si ha veramente 30 secondi, dopodiché uno dice no, sì, mi piace, non mi piace. Vabbè, comunque, bravo. Anche con noi, Michele Serrani, insomma, è così, diciamo, è della vecchia scuola, e devo dire che ci è piaciuto molto questo stampo cantautorale, che è sempre più difficile trovare, vero regia? Assolutamente, lei parla come un libro stampato, Paoletti, bravo. Non vorrei essere noioso, però insomma, no, mi dà del assolutamente. Mi dà del Matusalemme. Lei non è mai noioso, poi. Meno male, perché viene a trovarci invece un personaggio che abbiamo intervistato, e spero di non aver annoiato nessuno, però insomma ritorna il nuovo singolo, ce l'aveva già promesso Bracco di Gracci, che insomma ogni mese sarebbe uscito un nuovo singolo. È il momento del nuovo singolo dal suo nuovo album, si intitola La vita è un click, il nuovo singolo di Bracco di Gracci, ce l'ascoltiamo immediatamente. È inutile pensare che sia sempre ridere, sai, basta un nulla, ti fa piangere e ti ritrovi sola con te. È inutile pensare che sia tutto semplice, sai, basta un niente, mi fa perdere e mi ritrovo solo con me. Le parole troppo spesso non aiutano mai le nostre idee, anzi fanno confusione, creano patologie. Conta solo essere e vivere, tutto il resto sono solo fantasie. È inutile cadere negli stessi errori e ritrovarci sempre soli. È un film già visto troppe volte. Scusami, ma non ho più tanto da perdere. Il tempo è corto e devo vivere e non illudermi di essere. Pensare che non sia difficile, la vita è un click imprevedibile. Bracco di Gracci, La vita è un click. Bel brano, Paoletti. Esattamente. Bravo, Bracco di Gracci. E io mi ricordo ancora al tempo di Tour in Città, insomma, un altro suo collega diceva: se faccio click, poi non mi ricordo come andasse avanti il pezzo, però insomma già si parlavano di queste fotografie, insomma, istantanee. Lui fa queste istantanee dell'anima, ha queste trovate, a mio avviso, geniali, quasi poetiche. Non del resto poi lui è un grande cantautore che ha regalato perle anche per Gianni Morandi, per tanti altri artisti. È ritornato alla musica con un nuovo album, soprattutto sollecitato dai suoi fans, che non gli hanno mai perdonato appunto di aver lasciato il suo cantautorato, insomma, e quindi lasciato orfani i suoi fans per un lungo periodo. È ritornato proprio alla canzone italiana, che dire, ricordo due festival di Sanremo, il Festival Bar, del premio Rino Gaetano, insomma, quando era all'apice. Tanta roba, poi vabbè, non sai cosa ti dico, non canto più, e poi ritorno alla musica. Mi piace, perché un artista deve essere libero e lui lo è. Un saluto a Bracco di Gracci, magari ci stesse ascoltando, anche perché poi giochiamo in casa. Vi ricordo che c'è l'intervista dove lui spiega un po' tutto l'album e la filosofia che c'è dietro. E a questo punto dove noi è questa intervista, Paoletti? La troviamo sui siti ufficiali della radio, basta andare nella cartella musica di www.radiocittafugico.it, musica, poi cercate le interviste di Easy Pop nel riquadratino che prevede la ricerca e verranno fuori tutte le interviste del signor Paoletti. Esattamente, lei vuole sempre mettermi in imbarazzo, in difficoltà. Vado avanti, Paoletti, lei è uno speaker. Va bene, vado avanti con la prossima. Arriva Nusia, ci presenta Morea. Me up in the flight, deny the sun around me. Welcome to the island of Blue Maria. Well, people come and go here, memories bring me back here. Con Maria in sottofondo, questo brano molto sophisticated music. Eh beh, c'è anche un perché. Questo è il nuovo singolo di Nusia, Morea, come appunto scivolare nel profondo blu oltre il tempo e immaginare appunto un'isola polinesiana. Questo è il nuovo singolo di questa cantante, cantautrice, attrice, già appunto conosciuta soprattutto in passato per diverse iniziative. Nusia ci racconta che il maestro Franco Michalizzi, il producer del suo progetto, parlava di questa isola e lei si è così innamorata di questo progetto e se l'è immaginata così immersa in un blu profondo, in un oceano lontano, un po' come l'Australia di Mango di tanti tanti anni fa, insomma. Magari non c'è neanche stata, per dire, quest'isola, però chi insomma lo sa. Dai racconti non lo sapremo mai, certo. Dovremmo chiederglielo. Comunque lei è anche un'attrice, ha prestato più volte il suo volto per tante iniziative, tanti film, l'avete sicuramente visto. Adesso non sto a raccontarvi insomma gli spot pubblicitari che ha fatto e tante altre cose musicali che ha appunto che ha inventato, però insomma devo dire che ha un curriculum davvero interessante. Quindi ricordate il nome Nusia e questo è il suo singolo Morea, scritto con due O. Muria. Sembra che dica lei, ma ok, vabbè, okay. Scritto Morea esatto, con due O. Bene, E a questo punto cambiamo pagina, abbiamo ancora dell'ottima musica, nuovi personaggi da conoscere. Demagò, il prossimo pezzo che arriva si intitola Specchio dei nostri occhi. Demagò. Con le tue mani di seta mi accompagni nel giardino che non c'è. Vedi stelle colorate dalle fate, vuoi portarci anche me? Voliamo sopra i prati e le strade, pedaliamo lungo le sponde argentate. Come voi, vieni qui, noi non siamo come voi. Ma i grandi sono stanchi, è da tanto che non credono agli eroi. Continui a trasportarmi, sai che in fondo i miei occhi sono i tuoi. Vogliamo sopra i prati e le strade, pedaliamo lungo le sponde argentate. Vieni qui, noi non siamo come voi. Noi non siamo come voi. Demagò, specchio dei nostri occhi. Ricordo che siete all'ascolto di Easy Pop, 100% musica indipendente per menti libere sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.10 Bologna. Ed è proprio così, Demagò ancora in sottofondo, specchio dei nostri occhi. Questo è il singolo per i Demagò, che sono un gruppo rock italiano composto da Carlo Dadi, Moreno Martinelli, Emanuele Bruschi e ancora Marco Signorelli. Il nome di questo progetto fa riferimento a un caffè parigino frequentato da molti celebri artisti del panorama contemporaneo. All'attivo hanno già un disco autoprodotto intitolato Linea di confine e poi diversi singoli. Anime nella pioggia è il loro nuovo album che uscirà a breve e intanto ci ascoltiamo questo singolo, appunto Specchio dei nostri occhi. E a questo punto velocemente andiamo con la prossima selezione musicale che abbiamo già puntata, si intitola Oceano Mare, Daniele Cobianchi. Mai avrei avuto l'intenzione di avvicinare quel barbone per capire come sta. Avrei lasciato l'auto in doppia fila tra l'ingresso della scuola e la fermata del tram. Avrei truccato anch'io un appalto, urlato in banca, mani in alto, chiesto soldi in cambio di lealtà. A 24 anni mi ha salvato una storia che non ho cercato e mi è andata addosso. Oceano mare e respirare steso su un prato, solo a guardare una nuvola passare. Oceano mare e immaginare che esiste un punto esatto in cui finisce il mare e decollare fino a sconfiggere la gravità del vivere. Oceano mare e poi atterrare nella vertigine della profondità. avrei sparato senza resa dalla trincea di una tastiera, messo l'asta alla mia integrità. Toccato il culo a una signora, calpestato una bandiera, aggiunto l'ego tra le abilità. Avrei motivato un tradimento, un orgasmo a pagamento, fatto a pugni all'angolo di un bar. Ma 24 anni mi ha cambiato, una storia che non ho cercato, che mi è arrivata addosso. Oceano, mare. Oceano mare ci viene proposto da Daniele Cobianchi, di cui adesso Paoletti ci parlerà. Ma certo, è un nome per addetti ai lavori, soprattutto per chi fa pubblicità, una specie di Sergio Caputo in versione però in versione casalinga, nel senso che lui è di fatto un diciamo emiliano. Daniele Cobianchi infatti nasce a Parma nel novembre del 70, si laurea poi in legge, se non sbaglio, nel 98, e poi comincia insomma una serie di componimenti di scrittura e poi ovviamente, conoscendo l'ambiente musicale bolognese, anche di dischi. E infatti insomma cruciale l'incontro con Roberto Costa, già produttore di Lucio Dalla, di Luca Carboni e altri insomma dell'Hinterland appunto bolognese, e poi insomma diverse incisioni. Poi sospende il tutto, diventa un manager di una grande agenzia pubblicitaria, nel contempo invece scrive libri. Ritorna alla musica con questo nuovo singolo, in attesa dell'album che uscirà insomma a breve. Daniele Cobianchi, appunto, un interessante nome e soprattutto un grande creativo italiano, che dire, che ci ha sempre sorpreso e continua a farlo, perché insomma ritorna alla musica dopo aver scritto tre libri di grande successo, insomma complimenti. Quindi insomma da riprendere questo cantautore, riascoltare le sue proposte e soprattutto leggere i suoi libri, che insomma sono stati pubblicati, se non sbaglio, da Mondadori, da Mursia, insomma da tante case editrici importanti. Bene, ultimo brano di questa prima parte di questa puntata numero 15 di domenica 16 aprile 2023, che è Volata. Siamo ricchi di personaggi veramente. La prossima, Ranzi ci presenta Luna. Fuori piove, manco te ne accorgi, no. Ma che idea che tu ti fai di me, Tu sei dentro la stanza che rolli, ma io vorrei che tu ti fai di me. Scrivimi baby, nel cuore ho lividi baby, ho 100 singoli mai usciti e ti descrivono Allora stringimi baby, volevo viverti baby, ho 100 libri mai letti ma te li scriverò. Ti scriverò, ti prego dei baby non dire no, son sotto da un'ora dai scendi giù, che restiamo solo io e te e i tuoi capelli neri. Io ti aspetto da ieri, mi cancelli i pensieri. A volte non ti capisco, mi parli a codici mentre mi spieghi i tuoi film un po' malinconici. Sono già alle 14, a letto sei calda, cuocimi più della sabbia, tropici. Il cuore mio freddo, coprimi. Se non hai paura, non ne ho neanch'io. Quanto sei bella col vestito che è abbinato al mio. Se da quanto sei bella, sembra brutta Rio. Così bella che farebbe una multa, Dio. Ti scriverò, ti prego dei baby non dire no, son sotto da un'ora dai scendi giù, che restiamo solo io e te e i tuoi capelli neri. Io ti aspetto da ieri, mi cancelli i pensieri. Ma il tempo passa quando sto con te. Ooh, yeah, yeah.

Per info arcisanlazzaro.it/festival/paradiso-jazz. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, siamo rientrati dopo il break pubblicitario con la seconda parte di Easy Pop, puntata numero 15 di domenica 16 aprile 2023. Diamo spazio al 100% per musica indipendente, per menti libere. Io sono Franco Paoletti, al di là del vetro ovviamente il Bolognese Volante, che mi dà il là vero per il prossimo pezzo musicale, il primo della seconda parte. Do re mi fa. Ascoltiamo Francesca Romana per Rotta, ma lei non mi può interrompere così, mi mette a ridere. Là, non posso, potrò dare anche il do. Il mi, re, il mi, dai, vado avanti poi. Francesca Romana per Rotta ci presenta la canzone segreta, ve ne parlo fra pochissimo di lei. Francesca Romana per Rotta, la canzone segreta in sottofondo. Esattamente, è così, vincitrice di numerosi premi, la stessa Francesca canta le donne senza voce, artista impegnata da sempre nel sociale in difesa dei diritti delle donne, un po' come Susanna Parigi, ricorderete. Lei ha già al suo attivo diversi premi, si è già fatta valere o comunque si è messa in luce, per esempio nel 2018 è stata ospite al Festival di Sanremo per Rai News, anche al Palace per il premio Tenco, e poi insomma ha duettato con Simone Cristicchi nel brano Ritornerai, omaggio a Bruno Lauzi, e insomma la vediamo un po' nei programmi televisivi, finché appunto lei sta cercando quel brano che le dia la spinta finale, perché insomma la voce c'è, anche il personaggio funziona, però insomma manca quell'ultima spinta finale che insomma le radio non mancheranno di dare sicuramente. Intanto noi abbiamo presa sotto la nostra ala protettrice e abbiamo programmato questo nuovo singolo, appunto, che si chiama La Canzone Segreta. Detto ciò, passiamo al prossimo personaggio. Regia, cosa abbiamo? Abbiamo Manek con Grace. Touch your face, I wanna be a part of all that grace. Oh, leave you now is leaving me a part of all that sound. Become so real and shy. We'll not go down. You are made for all the stars above our heads. Ooh, I'm sorry. I'm so sorry. Sì, eccoci, allora posso parlare? Deve, sì. Deve Paoletti. Menek, l'alter ego del appunto personaggio, compositore, musicista Domenico Fusco, già dei Bliss nel 2020 decide di riversare in una chiave esclusivamente personale tutte le proprie emozioni, ispirazioni, quindi lasciando il gruppo e creando un progetto solista con il nome appunto di Menek. E nella sua vita è riuscito quindi a vendere buoni dischi e soprattutto a vivere di musica e a girare l'Europa con le sue ballate e appunto la sua musica. In questo momento con questo pezzo sta insomma avendo grandi riscontri, non potevamo non suonarlo con questo Grace. Detto ciò, regia, abbiamo la prossima artista. È già pronto. Numero due. Stiamo parlando di Asia con Effetto Placebo. Ci ascoltiamo? Via. Si vola ancora, sono un po' più giù. Accedo alla zona limite. Si vola ancora, solo un po' più giù. Meglio affogare dentro frasi scomode al limite, dietro quell'iride. Tu che mandi segnali blu viola, come il cielo stasera, gocce di sana scadono dall'alto. E risposta, o forse solo placebo. Un effetto speciale credo, segue un battito pratico che ti renderà apatico. E ti sacca il drago dentro lo stomaco. Stomaco nella flare. E può darsi che me lo bevo con dei baci di Don Aldito. Ed il tuo cuore deperito che si mangerà il fegato. La strada che ho perso è solo un secondo per fare un mix letale. Staccami in cave per questo che mi fai sbandare verso quell'iride che mi manda ancora in paranoia. E come fosse cera cala le fiamme dall'alto. Così mi scotto, o forse solo placebo. Un effetto speciale credo, segue un battito pratico che ti renderà apatico. E ti sacca il drago dentro lo stomaco. Stomaco in una flare. E può darsi che me la bevo con dei baci di Don Aldito. ed il tuo cuore deperito che si mangerai. Pregato nel caso ti avevo aiuto a rigenere il santo che troppo tutto il miscelo di razzi pomposi soltanto per arrivare a tempo sul sentiero più viola dietro il cielo stasera. E mi manda ancora in paranoia come se fosse vero. Asia con effetto placebo. Esatto, bella, simpatica questa selezione musicale. Asia scritto con A-S-Y, no Y, la J, giusto? J, e la Asia, Cresci, classe 1999, toscana, cantautrice, partecipa nel 2018 a The Voice of Italy nel team di Cristina Scabbia. E lei mi dirà chi è Cristina Scabbia. Non lo so. È la vocalist, della Cuna Coil, era, si non ricorda? So chi sono quelli lì. Benissimo, studia musica presso il St. Louis College of Music di Roma, una sorta di scuola tipo Fame, saranno famosi, dove si impara a suonare e insomma a frequentare certi ambienti, no? Di belli di scrittura e di composizione. Bene, insomma, lei ce la fa, arriva anche The Voice of Italy e devo dire che si laurea anche nel corso di songwriting e composizione e poi arriva insomma a girare diversi festival con la propria musica. Questo è il suo nuovo singolo che così rompe un certo silenzio, ci ha presentato appunto Effetto Placebo. C'è da dire una piccola cosa, a me lì per lì quando si ascoltano le canzoni e siamo lì a giudicare, tante volte noi diciamo no, perché appunto l'addizione fa insomma zoppica un po', non si capisce bene il testo, no? È molto esigente la storia d'azione musicale, nostra, molto esigente. Esattamente, è questo. Io non riuscirei mai a passare. Di tanti, esatto, di tanti, poi sembrano che abbiano in bocca dei limoni, delle cose, quindi si sente questa cosa. Strani che, suoni gutturali. Strani suoni gutturali e, non, e si fa fatica, no, nel oppure testo. Oppure registrazioni musicali un po' scarse. Un po' scarse, allora ci spiace anche dire no, la nostra redazione deve dire no, ma deve essere. Ma è una redazione molto severa. Qui abbiamo fatto fatica all'inizio, però la canzone e la preparazione c'era, ci è piaciuta e quindi la complimenti. È la passata. Olè. Comunque. Voleva dire Paoletti. Sì, perché poi alla fine si teneva. Io capisco anche che i nuovi artisti vogliano esprimersi in maniera diversa, rompere gli schemi, però insomma a tutto c'è un limite, no? Anche allo stesso autotune. La sua redazione musicale da dei limiti. È molto esatto, siamo molto esigenti, devo dire di sì. Bene, a questo punto, dopo aver fatto questa piccola puntualizzazione, fatto l'in bocca al lupo ad Asia, abbiamo Nunzia Lombardi, ci presenta Mia. Bisogno di te, dei tuoi forse, dei tuoi mai, e a dire il vero potrei fare a meno anche dei miei. Quanta fredda e inutile cordialità verso chi mi uccide spesso l'anima. Tengo troppo alla mia sensibilità per venderla. Luce del giorno, ci sei. Come un'onda arrivi qui, passi da un vetro così, tu risvegli i sensi e poi bruci in un momento questi petali, ma i fiori non nascondono gli ostacoli. Non voglio arrivare fino a perdermi, illuderti. Cosa fai? Ma dai che in fondo lo sai, anche se non chiamo mai. Stare insieme è bello quando è libertà, senza mai pretendere la verità. Non è di sicuro autoconvincersi di somigliarsi. Corre avanti e non si cura mai di me. chiama Nunzia Lombardi, il brano pop dalle leggere sfumature soul jazz ci ha così insomma ricordato molto un po' elegante. Sì, molto elegante, ci ha ricordato un po' Rossana Casale degli inizi con questa voce un po' nasale particolare, vero? È una interprete cantautrice bresciana, si esibisce per la prima volta all'età di 7 anni e nel contempo partecipa a diversi concorsi provinciali, nazionali e così insomma fa un po' la gavetta come tanti altri. A lei le piace Tori Amos, per poi insomma tutta quella musica un po' particolare dove in primo piano c'è soprattutto la voce, e poi insomma si laurea magistrale in fa la maturità e poi la laurea magistrale in antichità classiche orientali, e poi decide di tornare alla musica appunto con questo nuovo singolo che insomma ha anche un certo autore di grande importanza, a parte Andrea Amati, cioè Fabio Vaccaro, che è un personaggio nella scrittura italiana insomma importante. Detto ciò, regia, velocemente andiamo con la prossima selezione musicale, mi aiuti lei qui perché è un po' sono un po' in difficoltà. Ma io lo pronuncio come è scritto: Oin on Canvas Orfeo. Non te ne andare via, adesso arriva il giorno, vorrei che tutto attorno si respirasse ancora, vorrei che i nostri sguardi sapessero di strada. Non me ne andrò mai via per te, ti piace quello che vedi, ancora non mi credi, sono dalla tua parte, come allora? Mi mostro oggi come ero ieri, mi mostro come non mi hai visto mai, il temporale con i suoi misteri ha reso unica la nostra età. Ti mostri oggi come eri ieri, ti mostri come non ti ho visto mai. Le nostre vite in mondi paralleli e la promessa di incontrarci qui rapisce il cuore degli uomini, tocca le corde delle anime, fai quello che sai fare per me, incanta il mondo con la tua poesia, non voltarti indietro e adesso canta. Ferma il vento, la canzone è un mantra, il tempo ha senso circolare, esattamente come hai detto tu. Certo che le inventano tutte, perché non sono gli Oin, ma Oil on Canvas, l'olio sul canvas praticamente. Esatto. Che hanno proposto Orfeo. Esatto, esatto. Deve essere un refuso della redazione, andremo a bacchettarla quanto prima. Ma cosa vuole bacchettare? No. Capita. È meglio banchettare, altro che bacchettare. È vero, ha ragione lei. Orfeo, praticamente, è il brano che abbiamo ascoltato, è il secondo singolo che anticipa il nuovo e terzo album dal titolo Red di questa band trentina che appunto si chiama Oil on Carvans, disponibile a giorni insomma il loro album, distribuito dalla Resisto Distribuzione. Praticamente Sono un duo che poi si fa chiamare una band, un duo che però appunto dal Trentino hanno già insomma una certa, un certo curriculum, e quindi che dire, in bocca al lupo per questo nuovo album che uscirà appunto a breve. Noi a questo punto voltiamo pagina, che siamo un po' in ritardo, e ascoltiamo Ethan, Noti di lucciole. Inutile dire quello che sento, tutto mi dà tormento e forse c'entri tu. Mi sono nascosto nel nostro momento, eppure quel bel ricordo non esiste già più. Mi ritiro per ore a pensare a cosa fa meno male, vado sempre più giù. Ricordo solo il tuo sguardo irrisorio, quel bambino sognava come un incubo tu. Ma adesso che non ha più senso averti senza decidere. Notti di lucciole sopra uno schermo, resto fermo a scrivere ciò che non cerco, direi che è impossibile tornare indietro, lottare per perdere, non mi mancherai. Adesso guardo indietro e vedo i particolari di tutte le notti gridando non mi ami. Hai tolto la mia penna dalle cose reali, perché solo con quella riuscivo a calmarmi, riuscivo a trovarmi, riuscire a pensare. Sognare credo sia un po' come galleggiare, coi piedi di piombo su un mare irreale, contare i miei secondi prima di cadere. Ma adesso che credo abbia senso avermi un po' meno fragile. Notti di lucciole sopra uno schermo, resto fermo a scrivere ciò che non cerco, dire che è impossibile tornare indietro, lottare per perdere, non mi mancherai. Ethan, Notti di lucciole. Nome d'arte di Luca Diurno, è un cantautore nato, pensi un po' lei, a Sanremo nel febbraio del 99. Certo, è così, già sentiva nell'aria odor di musica. Odor di festival. Esatto, e ha deciso, beh, sai che c'è, che io voglio fare suono, il cantante. Beh, sono nato a Sanremo e non canto. Certo, insomma. Ma scherza, Paoletti? Giochi in casa, come no? Io però conosco dei sammarinesi che scappano quando c'è il festival di Sanremo, affittano casa e se ne vanno a fare le valigie, vanno in vacanza, non ne possono più. Come sempre, chi ha i denti non ha il pane, eccetera, e viceversa, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo correre perché abbiamo l'ultimo brano di oggi, Paoletti. Sì, allora volevo dire che Ethan ha fatto anche l'animatore cantante nei villaggi turistici per poi insomma approcciarsi alla musica e alla, così, alla scrittura, e devo dire che insomma che c'è riuscito, perché questo è il suo nuovo singolo. A questo punto abbiamo l'ultimo personaggio da scoprire quest'oggi, lo annunci lei perché io ho avuto difficoltà a capire. Guardi, anch'io. Allora è scritto Bies con l'accento sulla E, c'è traffico. La nostra storia è finita, già te l'ho detto, non l'ho sognato il destino che mi ha risposto. Ho avuto sempre fiducia in te, tu hai avuto sempre da dire su di te. La vita è bello vivere a Milano, risparmio i soldi del delivero, vai piano. Ho prenotato per due al ristorante, il nostro giorno più bello, quello più grande. Corri, corri, corri, e quando sei felice sogni, sogni, sogni. Lava gli occhi dalle lacrime che hai speso, smetti di tenermi solamente appeso. Appeso nel traffico, vivo in un attico, sogno un po' rigido, dormo un po' scomodo. Quando tiro in centro per Milano, mi piace piace quando tu mi dici che vai piano e non mi porti mai una volta al ristorante. Ma quante volte l'hai detto? Proprio tante. Corri, corri, corri e quando sei felice sogni, sogni, sogni. Lava gli occhi dalle lacrime che hai speso. Smetti di tenermi solamente appeso. Appeso nel traffico, vivo in un attico, sogno un po' rigido, dormo un po' scomodo. Ci parli di questo cantante, Paolo? C'è poco da dire su questo BS che ci è piaciuto. Noi l'abbiamo preso a scatola chiusa l'intero progetto. L'artista, pensate un po', mantiene la sua riservatezza e non svela la propria immagine. Non si può sapere niente, infatti non si sa nulla. Americo dava un po' giovanotti dell'inizio. Mi è piaciuto moltissimo e anche la redazione. Poi siamo stati conquistati da questo refrain, insomma, questa voce fatta col vocal dare, insomma un po', come dire, sporcato. E questa immaginazione di questo ragazzo che viene trasportato via tram nel percorso Repubblica Duomo a Milano ci è piaciuto immensamente e l'abbiamo così deciso di ascoltarlo. C'è traffico? Yes. Detto ciò, sono le 16, Franco Paoletti comincia a congedarsi, vi rimanda fra 7 giorni, stessa ora, stesse frequenze e quant'altro. Spero vi siate divertiti, noi sì. Speriamo che tutti gli ascoltatori e ascoltatrici si siano divertiti e divertite. Noi vi diamo appuntamento a domenica prossima, vi ringraziamo dell'ascolto, vi lasciamo alle programmazioni di Radio Città Fujiko che prevedono fra una mezz'oretta le corrispondenze di Dani Quarucci e a seguire la trasmissione C'era una volta all'West di Amalia Picella sul cinema. Certo, detto ciò, la nostra redazione apprende armi e bagagli, vi rimanda ovviamente fra 7 giorni, rimanete sempre con 103.100 in modulazione di frequenza Radio Città Fujiko. Buona domenica, buona settimana dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti, bye bye, bye. Avete ascoltato il C-Pop che vi dà appuntamento a domenica prossima alla stessa ora e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. からだ鋼鉄神宮